L'informazione non è più quello che era. Questo è forse il messaggio più significativo che emerge dalla Tre giorni informazione potere etica nel XXI secolo, organizzata nel quadro del Forum Universale delle Culture Barcellona 2004. 121 sono i professionisti del mondo della comunicazione riuniti in una serie di tavole rotonde che, iniziate ieri, mercoledì 19 maggio, si protrarranno fino a domani, venerdì 21. Manuel Campo Vidal, direttore della Tre giorni, ribadisce la necessità di ridefinire le relazioni tra le tre componenti della comunicazione: gli informatori, ovvero i giornalisti, i mezzi di comunicazione e i consumatori di informazione. Sarebbe terribile, secondo Vidal, che venga meno la fiducia tra informatori e consumatori, alludendo alle reticenze di alcuni media nordamericani sulla questione delle immagini di tortura nella guerra in Iraq, tendenza alla quale neanche la Spagna di Zapatero sembra sfuggire. Ancor più esplicito su questo punto lo specialista della comunicazione Manuel Castell, secondo cui la credibilità della televisione spagnola ha battuto qualsiasi record di non prestigio. Al centro dei lavori della giornata odierna la sessione sul giornalismo nelle zone di conflitto, che ha visto la partecipazione tra gli altri di Robert Ménard, segretario generale di Reporters sans Frontières. Secondo Ménard, l'informazione deve tornare al ruolo primario invece di dare una lettura ideologica dei fatti, come è accaduto alla stampa francese durante il conflitto iracheno, di cui spesso viene data una lettura caricaturale e non vicina ai fatti. Lucida, ma stranamente ambigua la sua posizione soprattutto al riguardo del conflitto israelo-palestinese, nel momento in cui giudica senza mezzi termini come terroristica l'azione dei palestinesi in questa seconda intifada. In un momento così difficile per l'informazione è opinione comune che la preoccupazione maggiore per i giornalisti e per i mezzi di comunicazione è mantenere la propria credibilità. Ed è in questa direzione che i lavori dovrebbero concludersi con il cosiddetto manifesto di Barcellona, che dovrebbe richiamare gli operatori dell'informazione ad un maggior rigore e a un approccio ai fatti più deontologicamente corretto. Due note in chiusura, la prima sulla presenza italiana alla Tre giorni, limitata a sole tre persone, di cui il sottoscritto, quale rappresentante europeo dell'Associazione Mondiale delle Radio Comunitarie, Paolo Serventi Longhi, segretario nazionale della Federazione della Stampa Italiana, intervenuto nella sessione sulle nuove reti di informazione nelle situazioni di crisi, e infine l'emblematica presenza del direttore del Foglio, Giuliano Ferrara, che interverrà domani in una sessione il cui titolo è tutto un programma Italia dalle mani pulite alla mano unica. In chiusura l'indignazione dello scrittore Paolo Coelho di fronte al prezzo altissimo che deve pagare il pubblico per assistere al forum. 30 euro per discutere qualcosa che dovrebbe essere gratis. Con queste parole lo scrittore ha lasciato la conferenza stampa a cui stava partecipando, dichiarando di sentirsi defraudato per esigere dai propri lettori un prezzo così alto per questo incontro. In altre parole, un'altra informazione è possibile, basta che non ce la fate pagare così cara. Da Barcellona è tutto, la linea allo studio.